Il fiore più bello, chi lo possa trovare, chi lo possa trovare. vogliamo cenar, vogliamo cenar. Quello che far divi onesta sposa, non so il pio. Stancarti, vita mia, di adoprarti, donna sollecitata e mezzo guadagnata. Parla, prega, prometti, incoraggisci, istruisci, lusinga! Ma signore, questa vostra premura, questa forma, ci mancherebbe poco che io credessi voi stessa di Lilla innamorata. Ah, che ti pare? Amare un uom par mio, Corrado amare. Osserva questo qui, che fatto mai d'argento, il curvo con osserva. Thank you. Thank you. Thank you. Seguir de Gio chi fugge. Thank you.